È sempre questione di parole, parole giuste, parole corrette, parole concrete, parole che dicano o la verità o la realtà, e non è facile. Questa manipolazione continua delle parole sembra essere diventata una piaga. Forse lo è sempre stata, ma è piuttosto evidente, anche nel disagio che crea, rispetto alle tante parole che non vengono dette e che, in qualche modo uccidono quindi anche i soggetti. Sto parlando della giornata della memoria, sto parlando delle omissioni che questa giornata della memoria continua a produrre, non raccontando tutte le narrazioni possibili su chi è stato veramente vittima della discriminazione e dell'ideologia mortale che ha prodotto non solo la lotta contro i semiti, ma anche contro tutte le persone omosessuali che hanno trovato appunto in quegli anni morte certa, solo per essere in qualche modo contrari all'ideologia dominante e alla visione del mondo che ogni ideologia impone. Poi ci sono le parole, quelle urlate o silenziose, nelle piazze in nome di una violenza sessuale che continua a dilagare e che continua a fare vittime. Tutte le vittime forse sono innocenti, chi lo sa, bisognerebbe pensare anche agli aggettivi che si mettono accanto ai soggetti. Sicuramente sono vittime donne che una pratica di stalking diffusa trasforma in capri espiatori di un amore che è un malamore. E forse ancora una volta quindi è un problema di educazione. È un problema di interpretazione dei propri desideri e dei propri bisogni. È un problema di costruzione culturale delle relazioni umane, affettive e sociali. In mezzo a tutte queste parole dette o non dette, a questi soggetti che parlano, che restano muti, il nostro lavoro continua ad essere, come dire, capitale. Ed è per questo che proprio in questi giorni abbiamo varato il blog delle persone libro di Donne di Carta, perché è un luogo, anche se virtuale, dove raccogliere le testimonianze visive e audiovisive di un cammino e di un viaggio che ha permesso di incontrare tante persone diverse e quindi di ascoltare tanti discorsi diversi. Alcuni di questi discorsi sono nelle voci dei libri, quindi sono le parole prese in prestito dai libri. Altre invece sono discorsi fatti dalle persone che questi libri e queste voci hanno ascoltato e alle quali hanno risposto con una riga a memoria o semplicemente, più semplicemente, raccontando a noi chi erano, che cosa facevano e che cosa avrebbero fatto. Tutto questo è un mondo che necessita assolutamente di parole più giuste, più reali, più concrete. Ed è un motivo per cui questa Carta dei diritti della lettura, che il 4 febbraio sarà ad Arezzo, ospitata dalla biblioteca e voluta fortemente dalla presidente Sandra Rogialli, dovrà, spero, avere un pubblico forte, un pubblico consapevole, che non si va da nessuna parte se non si impara ad usare le parole. E visto che non posso mettere a colonna sonora la canzone di Mina, parole, parole, parole, cercherò di dire quello che penso a modo mio. E il modo mio è questo. Io sono una poesia di abbucarmi il cuore, di Sandra Giuliani. Pazienza genera desiderio, mentre la parola gettata diventa scoglio e oceano davanti. E vi rotola dentro ogni sua schifezza il mondo. Lungo la catena di nuvole che ricuce l'orizzonte, sta lì, a soglia, un chiunque altrove di amori veri. Il disegno che si lascia è un percorso a ritroso di noi, spazi vuoti. E il futuro deriva da ciò che cancelli distrattamente. Grazie.